Sole malato, guappis un ponte nalbro ingialluto. Stoccello mio, che grigio è diventato da quante tu te ne siuta. Sole, sole malato, stai là come per te, tutte fernute. Io penso a te che gli anni è imbracciata. Amore mio, chi t'ha già detto che ci resta una speranza primavera. Pensa a te che gli anni è imbracciata. Amore mio, chi t'ha già detto. Pensa a te che gli anni è imbracciata. Amore mio, chi t'ha già detto. Amore mio, chi t'ha già detto. Grazie di nuovo. Primero de todos, en pie, por favor. Los violines de la Orquesta Sinfónica de Chile. Sassofono, Enrico Gabrielli. Chitarra, Alessandro Asso Stefana. Por el bajo con los huevos, Trevor Don. Batería acá, Scott Amendola. Chi, chi, chi. Percussión, Mirael William Vinand. Las coristas bellitas, no, qué bonitas. Valeria, Roberta e Claudia, direttamente della Sicilia. Accattamo Matt Rhodes elettronico. E por ahí, mira ese viejo. Termine elettronico Vincenzo Vasi. Mano. E onde sta James Bond? Acca, in piedi, minchia. Teclara Henry James Bond Junior. E non por menos, el maestro Portegno. Cece Alara. Aquí estamos, Perro Mundo. Ciao ciao, mua, alla prossima. Muchísimas gracias por la noche acá, ok? Mua, ciao.